Suppongo che abbiate letto anche voi sull'ultimo numero delle Monde Diplomatique edizione italiana le fulminanti riflessioni di Edoardo Galeano su questo nostro strano mondo. Un mondo in cui c'è un paese, gli Stati Uniti, che per tener fede alle proprie linee di politica estera, intese notoriamente a contenere ogni volontà di sopraffazione sugli altri, dovrebbero invadere o bombardare se stesso. In cui i supposti detentori del potere politico contano sempre meno di fronte a chi stringe i cordoni della borsa, per cui non è logico supporre che buona parte dei governanti, manodopera ormai superflua, corra il rischio del licenziamento. Un mondo in cui non si può lottare contro la droga perché le strutture che più delle altre traggono beneficio dal narcotraffico, cioè le banche, sono al di là di ogni possibile sanzione e in cui l'industria delle notizie potrebbe bloccarsi perché di eventi mediatici più futili di quelli con cui siamo stati intrattenuti in questi anni è difficile trovarne. È un mondo capovolto, insomma, in cui la contraddittorietà tra il quadro valori enunciato e quello effettivamente riconosciuto è sempre più difficile da occultare. Stupisce trovare citato come esempio ulteriore di questo stato di cose il caso della città di Muzaffarnagar, nello stato indiano dell'Uttar Pradesh, in cui, stando a quanto riferisce The Times of India, è stata istituita una scuola del crimine, che sta riscuotendo enorme successo. Vi viene impartita un'educazione di alto livello, al fine di mettere gli adolescenti locali in grado di guadagnare facilmente grosse somme di denaro. I corsi comprendono materie come rapimenti, lesioni personali, esecuzioni e sono ovviamente integrate da seminari, esercitazioni e sessioni pratiche. I direttori sostengono di rispondere a una richiesta di mercato e di svolgere una funzione sociale, visto che l'educazione criminale è la sola che garantisca ai giovani di laggiù un lavoro ben remunerato e a durata indeterminata. Ecco, a Galeano la notizia sembra paradossale. Evidentemente lo scrittore uruguaiano, il brillante scrittore uruguaiano, non si è tenuto aggiornato con il più recente dibattito italiano in tema di scuola. Se avesse seguito le dichiarazioni concordi degli esperti del nostro paese, proprio tutti gli esperti, funzionari ministeriali, sindacalisti, esponenti del governo, leader dell'opposizione, laici, cattolici, tutti quanti, saprebbe che a Muzaffarnagar rispetto a noi sono appena un po' avanti, ma appena un poco. Qui da noi tutti sanno da almeno un decennio che la scuola deve rispondere alle esigenze del mercato. Tutti concordano sulla necessità di orientare gli sforzi in quel senso, lasciando perdere le vecchie fumisterie sulla formazione della personalità e l'acquisizione dello spirito critico e altre baggianate. Noi crediamo a torto a ragione di poter offrire ai giovani delle prospettive per cui siano utili delle competenze non necessariamente criminali. O informatica, per dirne uno, o l'inglese, per plagiare da Berlusconi 2i su 3. Ed informatica ed inglese, infatti, inzeppiamo le giovani menti. A Muzaffarnagar la vita è presumibilmente più dura. E nel presupposto che l'unica attività aperta alle nuove generazioni sia quella banditesca, di competenze banditesche si fa loro offerta. Ma vedete che la logica è sempre quella. È quella di offrire a caro prezzo quanto chiede il mercato. Che tra il piano del mercato e quello della scuola ci sia, se non proprio un'incompatibilità assoluta, almeno un'esigenza di distinzione, che ai valori della cultura, in altri termini, vada riconosciuto un minimo d'autonomia, qui non lo dice più nessuno da almeno 10 anni. 15 facciamo. 20. Per cui, visto che il settore, come si dice, tira, aspettiamo con ansia l'apertura anche nel nostro paese della prima scuola di attività criminali, privata naturalmente, ma con finanziamento statale, mi raccomando, e l'ora di religione obbligatoria.